questo decreto si sono uniformati soprattutto i supermercati, che sono andati appunto a sostituire la plastica con i sacchetti biodegradabili compostabili o sacchetti di carta. Certo, i consumatori, soprattutto quelli che continuano a dimenticarsi di portare la sporta, non hanno reagito molto bene, insomma, questo è abbastanza ovvio. Però nonostante tutto, diciamo che gruppi molto attenti all'ambiente come la Coop sono arrivati a ridurre il consumo di sacchetti usa e getta del 60%, che non è tantissimo considerando appunto che questi sacchetti superano i 10 centesimi, quindi diciamo che anche la leva fiscale, insomma, non è abbastanza penalizzante per convincere, diciamo, tutti veramente a attrezzarsi con delle sporte. Qual è stata la leva fiscale utilizzata per incentivare il passaggio da una tipologia di shopper all'altro, quello, come dire, dal punto di vista ambientale meno impattante? Ma non è stata usata, nel senso che ci sono stati alcuni gruppi che hanno fatto un po' di sensibilizzazione tra i clienti, hanno messo a disposizione delle borse riutilizzabili che costano molto poco, un euro, in alcuni casi sono state anche regalate, e quindi c'è stato un tentativo di facilitare il cambio di abitudini. Invece, per quel che riguarda ancora i negozi del piccolo commercio, sono pochi quelli che si sono adeguati, e qualche panetteria che quindi ha cominciato a farli pagare, ma la grande maggioranza degli esercizi commerciali, così come i mercati, stanno ancora usando i sacchetti di plastica, quindi diciamo sicuramente dai 20 miliardi di sacchetti che usavamo siamo scesi, però non penso ci sia stato ancora un dimezzamento.